capomastro tira sul ponte, che la tua bella da te vuol venire. Che quando il fiume s'agita, lei dai suoi occhi lacrima, dall'altra sponda grida il tuo nome, perché non può venire. Il capomastro disse al diavolo: aiutami a tirarlo su, di giorno lo faccio e di notte vien giù, ed io ti darò tutto quel che vuoi tu. E il diavolo disse: va bene, il ponte si farà, ma voglio l'anima di chi passa di là, e per primo sul ponte camminerà. E quando tu passi di là, dall'acqua senti cantare una canzone, chi l'ascolta comprenderà che sotto ai suoi piedi ci sta nascosto un dolore. Signor capomastro, sotto a quel ponte ci sta una voce che non vuoi sentir, grida vendetta isterica, tua moglie grida e si agita, quando lei seppella giù seppellisti nella sua gelosia. Col gatto cai nella gabbia, capomastro cosa ci vuoi far? Per primo a lui il ponte farò passar, sarà la sua anima che il diavolo avrà. Capomastro alza lo sguardo e dimmi chi vedi arrivar. È la mia bella che mi viene ad amar, è lei la prima sul ponte a passar. Fu tua moglie che da laggiù, fingendo che fossi tu, riuscì ad attirarla. Che da laggiù, fingendo che fossi tu, riuscì ad attirarla. E quando tu passi di là, dall'acqua senti cantare una canzone, chi l'ascolta comprenderà che sotto ai suoi piedi ci sta.